Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Vino, un affare di famiglia, di Maria Chiara Grandis. Puntata speciale di Voci d'impresa oggi per parlare, come sempre, di imprese familiari italiane, ma che operano in un settore specifico, quello del vino. Un settore dove la presenza di imprese di proprietà familiare è particolarmente forte. Delle 174 imprese italiane del vino con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, infatti, oltre la metà, 94, sono controllate dalla famiglia proprietaria, secondo i dati dell'osservatorio AIDAF dell'Università Bocconi. In generale, queste aziende sono in crescita e nel decennio 2001-2011 hanno visto un incremento dei ricavi dell'86%, arrivando a fatturare oggi più di 4 miliardi di euro all'anno, ossia il 42% del fatturato dell'intero settore vitivinicolo, pari a 10 miliardi. Guido Corbetta, titolare della cattedra AIDAF Alberto Falck di strategia delle aziende familiari dell'Università Bocconi, ha condotto la ricerca. Quello che emerge è un quadro di imprese che sono cresciute bene, che sono riuscite a superare la crisi del 2008-2009 abbastanza bene. Emerge una redditività buona, una buona solidità. Forse emergono magari invece un paio di elementi di criticità. Uno è legato al ricambio generazionale, nel senso che abbiamo notato una percentuale di imprenditori di età superiore ai 60-70 anni più alta di quella di altri settori. E quindi questo vuol dire che probabilmente i processi di ricambio generazionale sono stati un pochino rallentati. La seconda è che i consigli di amministrazione di queste imprese sono molto spesso composti solo da familiari, mentre io credo che una presenza di persone anche non familiari possa consentire, come dire, l'emergere di opinioni diverse, di pareri diversi, che alla fine sono utili anche all'imprenditore per prendere decisioni migliori. Più della metà delle aziende vitivinicole familiari italiane ha un fatturato inferiore ai 25 milioni, ma la piccola dimensione non impedisce di esportare parte crescente della propria produzione, circa la metà, un dato in linea con le altre imprese del settore in Italia, il maggior paese esportatore di vino a livello mondiale, in base al volume d'affari. La capacità di vendere all'estero in un periodo di calo dei consumi interni ha consentito la tenuta del fatturato durante la crisi. Questo vuol dire che è possibile a queste dimensioni, diciamo, esportare, è possibile essere presenti sui mercati internazionali, perché appunto poi i risultati premiano queste strategie. Io credo che attraverso canali diretti o canali indiretti, evidentemente questa è una possibilità che esiste, visti i risultati che raccolgono. Aprirsi all'esterno, portando avanti la tradizione di famiglia, è la strategia dei Lunelli alla guida di Cantine Ferrari, leader delle bollicine italiane, con lo spumante metodo classico dal 1902. 52 milioni di euro il fatturato 2012, con le esportazioni cresciute del 23% rispetto all'anno precedente. Per il presidente Matteo Lunelli, la gestione familiare rappresenta una leva strategica. Noi siamo alla terza generazione e credo che nei nostri 111 anni di storia essere stati un'azienda familiare sia stato un vantaggio competitivo, perché ci ha permesso soprattutto di avere un'ottica di lungo periodo, un'ottica addirittura generazionale, che nel settore del vino è fondamentale. Basti pensare che quando ad esempio si progetta di piantare un nuovo vigneto, i tempi sono lunghissimi, i tempi partono appunto dall'impianto, ci vogliono diversi anni prima che l'uva sia un'uva di qualità adeguata per produrre il vino che vogliamo produrre, e poi magari questo vino dovrà invecchiare per 5, 7, magari 10 anni per una grande riserva. Ebbene, quando si parte con un nuovo vigneto, forse bisogna proprio pensare quasi in un'ottica generazionale, ottica che appunto una famiglia riesce ad avere rispetto ad altre forme di assetti proprietari. Tre aziende vitivinicole familiari su 4 scelgono una leadership individuale, caratteristica che ne garantisce la longevità, perché più della metà sono attive da oltre 25 anni. In un quarto dei casi, il leader ne ha più di 70. Ma alle Cantine Ferrari, la seconda generazione ha voluto passare il testimone alla terza. Matteo Lunelli è diventato presidente dell'azienda trentina a 37 anni, nel 2011, succedendo allo zio che ha lasciato, con mezzo secolo di carriera alle spalle. Lunelli è entrato in azienda dopo la laurea e 5 anni di esperienza in Goldman Sachs, tra New York, Londra e Zurigo. La seconda generazione della mia famiglia è stata lungimirante, perché ha saputo anche disciplinare il rapporto tra famiglia e impresa. Ad esempio abbiamo siglato dei patti di famiglia in cui questo rapporto tra famiglia e impresa viene proprio disciplinato in modo dettagliato, in cui si stabiliscono delle regole, un po' come la Costituzione, no? per uno Stato. Fissare delle regole prima che magari servano è un modo per evitare discussioni, per evitare conflitti. Le regole possono riguardare l'ingresso di nuovi familiari in azienda, che nel nostro caso noi sappiamo che i nostri figli dovranno aver ad esempio fatto un percorso di formazione prima di entrare in azienda, ma dovranno aver lavorato almeno quasi 3 anni di fuori del gruppo familiare. Ci sono delle regole ad esempio da noi che stabiliscono come nel consiglio di amministrazione della nostra holding ci debbano essere dei consiglieri esterni alla famiglia di grande esperienza. Noi abbiamo 2 consiglieri esterni come Innocenzo Cipolletta e Lino Benassi, che sono 2 manager che hanno avuto esperienze di altissimo livello in grandi istituzioni, e questo è un grande contributo di equilibrio alla nostra struttura di governance. La crisi economica ha accentuato ancora di più l'inclinazione delle aziende del vitivinicolo ad affidare a membri familiari posizioni di comando. Alla guida di Donna Fugata, avventura iniziata nel 1983, dalle storiche cantine della famiglia Rallo a Marsala, attive fin dall'Ottocento, ci sono José Rallo e il fratello Antonio, accanto ai genitori Giacomo e Gabriella. Oggi l'azienda conta oltre 300 ettari di vigneti e produce rossi e bianchi siciliani. L'azienda familiare rappresenta un'azienda con un produttore in pole position, che può essere una forma di prestigio, di reputazione, identità, territorio, aziende che stanno sul territorio da centinaia di anni. Questo è molto importante, fa colpo, ecco, sia sui mercati maturi che sui mercati emergenti. È una cosa proprio che distingue, che dà un valore aggiunto. La mia famiglia è la 5ª generazione e quindi abbiamo iniziato nel 1851 con la produzione del vino Marsala e poi nel 1983 questa grande rivoluzione dovuta all'entrata, diciamo, in scena della vigna di Contessa Entellina, ereditata e gestita da mia mamma. E quindi Donna Fugata nasce lì, nelle terre del Gattopardo. Io sono una di quelle a cui non è stato chiesto di entrare in azienda, né mio padre né mia madre mi hanno mai chiesto o spinto, e di questo li ringrazio. Quindi mi hanno lasciato fare le mie esperienze di studio, di lavoro, e ho potuto portare una mia esperienza, un mio gruzzolo da spendere dentro l'azienda, no? Io non chiedo ai miei figli, seguirò questa strada. Naturalmente nel mio cuore c'è un grande desiderio che uno dei due, se non tutti e due, possano un giorno lavorare a Donna Fugata. Comunque è un lavoro divertente, il mondo del vino è bellissimo e dà grandi soddisfazioni. Crescere nei nuovi mercati è anche l'obiettivo di Donna Fugata. 13 milioni e mezzo il fatturato 2012, di cui il 30% ricavato dall'export. Assolutamente, l'estero che traina, devo dire fortunatamente, sia i grandi mercati come Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, ma anche piccoli mercati emergenti come il sud-est asiatico, che danno grandi, grandi soddisfazioni sui prodotti ad alto valore aggiunto di fascia alta. Nel 45% dei casi il consiglio di amministrazione delle aziende vitivinicole familiari è costituito dai familiari stessi, un dato superiore alla media delle aziende familiari italiane, ma in calo. Una dinamica questa che evidenzia un segnale positivo per José Rallo, alla guida di Donna Fugata, azienda di famiglia. Io direi che oggi è anche importante che chi è proprietario o lavoratore in un'azienda, quindi manager, amministratore, deve anche continuare ad arricchire le sue competenze, deve anche continuare ad aggiornarsi, è qualcosa che non finisce mai. Il caso di Donna Fugata lo posso raccontare: io e mio fratello, oltre ad arricchire le nostre competenze con corsi di aggiornamento, abbiamo anche accettato ad esempio numerosi incarichi in associazioni di produttori per appunto accrescere le nostre competenze in termini di capacità di gestire le relazioni all'esterno e quindi poi anche all'interno dell'azienda. Meno di un terzo delle aziende vitivinicole familiari ha realizzato una successione al vertice tra il 2001 e il 2010. È questa la sfida per il futuro per questa tipologia di impresa, insieme alla crescita dimensionale, secondo Guido Corbetta, titolare della cattedra AIDAF Alberto Falck di strategia delle aziende familiari dell'Università Bocconi di Milano. Soprattutto perché, se da un lato il ricambio generazionale rappresenta una spinta per l'azienda, dall'altro è una tappa delicata per le imprese che non sempre sopravvivono alla fase di transizione. Il passaggio dalla prima alla seconda generazione è più facile, ce la fa il 35% delle aziende familiari, ma le cose si complicano già dalla seconda alla terza, quando la percentuale scende del 15%. La mia impressione però è che, almeno conoscendo un po' di queste realtà imprenditoriali, vedo una grande continuità, quindi vedo tante famiglie che sono determinate a continuare la loro storia imprenditoriale. Io credo che il marchio familiare, un viso, un volto, una faccia, un radicamento territoriale, un orientamento all'investimento di lungo termine, siano tutti elementi che fanno punti di forza delle imprese familiari. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.